Questo primo capitolo di Marco è un capitolo famoso perché descrive la prima battaglia che Gesù fa contro il male e la malattia, contro il maligno. E io vorrei ripercorrerlo un po' con voi perché è proprio un capitolo fondamentale. Gesù è venuto sulla terra per liberare l'uomo, l'umanità, dal peccato. Il peccato è frutto del male, del maligno. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Dunque qui vediamo che il Vangelo dice insegnava loro come uno che ha autorità. Cosa vuol dire? Che quello che dice lo fa. E l'autorità è espressa soprattutto nel suo scacciare i demoni e nel guarire dalle malattie. Che si tratti di demoni, anche se la parola malattia e demonio è unita, che si tratta di demoni è chiarissimo, perché quando mai un malato si è rivolto a Gesù, quando un sordo, un muto, un cieco veniva guarito dicendo ma io lo so chi tu sei il santo di Dio e sei venuto a rovinarci. È così chiara questa affermazione che io con stupore incontro persone di tutti i tipi che dicono ma no, ma il diavolo non esiste, è un modo di dire. E Gesù comandò severamente: esci, taci, esci da lui. E la gente è stupita e dice: guarda, guarda, questo qui comanda persino agli spiriti impuri, li chiama spiriti impuri perché sono contrari alla purezza di Dio, alla santità di Dio. E gli obbediscono. Io vorrei dire due parole su questo. Anzitutto Gesù ha autorità. Comanda e ottiene. Il fatto è poi che Gesù ha lasciato questa sua autorità alla Chiesa, agli Apostoli, ha detto da risorto, ha dato tre comandi. Andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, primo. Guarite i malati, secondo. Scacciate i demoni. E allora io vorrei sottolineare che questa autorità la Chiesa ce l'ha e la esercita, soprattutto attraverso gli esorcisti. Questo lo sapete bene, ma io ripeto un concetto che vi ho già detto, perché ci tengo che sia ripetuto. Anche i genitori hanno questa autorità quando i loro figli sono tribolati dal maligno. Usate, cari genitori, i genitori, perché sono solo loro, onora il padre e la madre, quarto comandamento. Hanno l'autorità da parte di Dio, usino la preghiera di comando, nel nome di Gesù, nel nome del mio essere padre, essere madre, con la potenza del sangue di Cristo, lascia in pace mio figlio, lascia in pace mia figlia. E tante volte il loro comando è efficace. Ma c'è anche un comando che possiamo dare su noi stessi, questo forse non lo dice ancora nessuno. Alcune volte noi ci accorgiamo che viviamo dei momenti di tentazione particolare, vero? In genere può essere sull'impurità, sull'ira e sulla pigrizia, poi anche tanti altri peccati, ma certe volte ci accorgiamo che siamo attaccati in una maniera speciale, ci abbiamo dentro come una voglia di ira, una voglia di pigrizia e una voglia di impurità. Bene, noi possiamo rivolgerci a questi spiriti che ci attaccano interiormente e dire: io, con l'aiuto della Madonna, con l'aiuto di Gesù Cristo, ti ordino, lasciami in pace, vattene via. E poi dici una bella Ave Maria, un bel Padre Nostro, non ci abbandonare alla tentazione. È efficace, amici. Con stupore vedreste che la tentazione passa. anche noi abbiamo autorità sui demoni che ci attaccano, perché siamo battezzati. Vorrei dirvi ancora un punto, perché queste cose non ve le dice nessuno. Venuta la sera, gli portavano tutti malati e indemoniati. Qualcuno dice, vedi, Gesù li confonde, non sono indemoniati, sono malati. No, invece l'esperienza del Vangelo e l'esperienza dell'esorcista dice che molto spesso la malattia è agganciata al male, al maligno. Ci accorgiamo che sono tre parole identiche? Male, malattia, maligno. Non perché uno è indemoniato, no, però può essere tentato. Io per esempio ho sperimentato molte volte alcuni bambini tribolati nel sonno e nel mangiare, che sono stati liberati momentaneamente, certo, poi dopo la cosa si ripresenta, con una benedizione, anche per telefono. Adesso io dico così, poi magari mi chiamano da mezza Italia, ma io sono contento di aiutare una mamma che mi dice, dopo la sua benedizione la mia bambina ha fatto 11 ore di sonno di filato e anche noi abbiamo dormito bene. Il demonio tribola bambini e famiglia. E anche per il mangiare, io direi, cari cristiani, tenete sempre in casa dell'acqua benedetta. Come in casa avete dei deodoranti, dei profumatori per vincere gli odori della casa, tenete in casa l'acqua benedetta per vincere gli attacchi del maligno. I nostri vecchi non gli mancava mai in casa. Qui dalle nostre parti si usava 50 anni fa tenere vicino al letto l'acqua santiera e la madre di casa passava spesso a benedire i letti dei figli, a benedire la casa. Coraggio, coraggio. E dove andiamo a prenderla? Andate dai vostri preti, fatevela benedire, o in tante chiese ormai ci sono dei boccettini di acqua benedetta. Non portate i vostri bambini, i vostri nipotini dai guaritori. Quanto danno fanno? Non liberano i bambini, ma facendo appello al maligno o a delle magie, li incatenano ancora di più. E infine, se qualche sacerdote ascolterà queste parole, io gli direi, coraggio, benedica, benedica, benedica i bambini. Gesù li benediceva, lasciate che i bambini vengano a me. La benedizione del sacerdote è potente, non per sua capacità, ma per capacità di Dio. Alla fine di un esorcismo il demone mi dice, come siete poco furbi voi preti. La vostra benedizione, anche quella che date alla fine della vostra messa, è potente quasi come un esorcismo.